Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Bene, bene, bene. Eccomi qua anche questa settimana. Giulio Caperdoni in vostra compagnia. Leggo che è la settimana numero 26, la stagione è la numero 12. I numeri diventano sempre più impressionanti da un certo punto di vista. Questa è eclettica su Rock FM. Le stagioni, avete sentito, sono 12, quindi dal 1994. Giulio at radiorockfm.com, questo è il mio indirizzo di mail. Vi può servire veramente per tantissime cose. Stavo per dire un sacco di cose, ma poi mi è venuto in mente il segno rosso che mi metteva sempre il mio professore del liceo quando usavo questa espressione, quindi l'ho rimandata indietro. Partiamo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio, e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l'unico immodificabile evento di cui si possa asserire l'incontrovertibile verità. Ma videmus nunc per speculum et in enigmate è la verità, che prima, faccia a faccia, si manifesta a tratti, ai, quanto illeggibili, nell'errore del mondo, così che dobbiamo compitarne i fedeli segnacoli, anche laddove ci appaiono scuri e quasi intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Giunto al finire della mia vita di peccatore, mentre canuto se n'esco come il mondo, nell'attesa di perdermi nell'abisso senza fondo della divinità silenziosa e deserta, partecipando della luce inconversevole delle intelligenze angeliche, trattenuto ormai col mio corpo greve e malato in questa cella del caro monastero di Melk, mi accingo a lasciare su questo vello testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù mi accadde di assistere, ripetendo verbatim quanto vidi e udii, senza azzardarmi a trarne un disegno, come a lasciare a coloro che verranno, se l'anticristo non li precederà, segni di segni, perché su di essi si eserciti la preghiera della decifrazione. Questo era l'incipit del Nome della Rosa di Umberto Eco. Already told you All my platitudes sang you my interlude. But now that I am here with you, no words will suffice. No, five New Yorkers, they wait among bills as neglected blank checks, basking dust on my sill. In those antimazepam, atenolol, and other stray pills. Well, I can't conjure your face in this New England chill, in this New England chill. Gray and matters less with each sunset. Here come a bomb, the sound of a language, the sound off kilter with casualties pending. The pact is death, the action-packed ending. It's not sarcasm, we're training eyes. Hands are weak and see them, ass in the sky. Asinine lies for assassins we need. A motives for making that human ink bleed. Champions, fly. Calling all living, affirming all dreams. Screaming all hell, as real as it seems. Send your explosions, get up off toes. Kids are at attention, tend them towards pros. Smoldering shows, Youngblood Brass Band, questo è il nome della band che vi siete appena ascoltati con Nuclear Summer, il titolo del brano che di tanto in tanto ritorna nelle playlist di Eclettica. E a proposito delle playlist di Eclettica, vi ricordo che per poterle ricevere direttamente nella vostra casella di posta, poi vengono anche pubblicate sul sito, ma tipicamente prima vengono inviate nella vostra casella di posta e poi a seconda della disponibilità del webmaster dopo qualche giorno compaiono anche sul sito. Comunque per poterle ricevere basta che mandate a Giulio @radiorockfm.com un mail per dire voglio essere iscritto alla lista. Ormai stiamo anche decidendo, lo state decidendo voi visto che mandate le vostre iscrizioni, la chiamiamo nera, alla lista nera, mandate le iscrizioni alla lista nera, la lista di coloro che ascoltano Eclettica e vogliono essere informati sul futuro e il passato di Eclettica, quindi le playlist di quello che vi siete ascoltati e le cose che potrebbero succedere nelle settimane successive. In apertura invece questa sera ci siamo ascoltati Jeff Farina, brano già passato come pillola la settimana scorsa, l'ex leader dei Karate è uscito per ora con un disco contenente solo 4 tracce come prima prova solista appunto dopo lo scioglimento della band. Non è la sua prova prima solista in assoluto, ma è la prima in assoluto dopo lo scioglimento dei Karate. Disco uscito per la Southern Records dal titolo Already Told You, come anche Already Told You è il brano che vi siete ascoltati in apertura di Eclettica. Ed ora ritorniamo, dopo qualche settimana che non passavamo più da quelle parti, su After Dark, My Sweet, l'ultimo di Julie's Haircut. Questa è Death Machine. Office. Cadet Mahoney. Okay, Mahoney. Get going. On the double. Move it, move it, move it. Shh. Botox è il titolo dell'album dei Magic Cake, trio che incide per la Pye Loft e che ci siamo ascoltati quest'oggi con il brano dal titolo Man in Makeup. Lo stiamo imparando a conoscere in diversi brani, non solo in questo ma anche in altri brani che già sono passati. Li trovate nelle fantomatiche playlist già citate questa sera. Passiamo ora ad un'altra band italiana che però non si presenta come tale, agli Hot Gossip, la nuova band di Giulio Calvino. Vino ex Candies, ora incide per Ghost Records sotto questa nuova ragione sociale, ma prima di ascoltarcelo vi lascio con le date dei concerti che potrete andare a vedere gratuitamente grazie ad Eclectic, a partire dai Breaks. Ormai per la data di Milano non si fa più a tempo, ma però abbiamo disponibilità per la data del 7 a Torino allo Spazio 211 e dell'8 al Covo di Bologna. Breaks che vi ricordo essere una somma algebrica di British Sea Power Electric Soft Parade. Poi altro concerto, quello del 7 di venerdì sera allo Zero Music Club di Azzano San Paolo degli UFO Mammut. E poi non concerti ma dischi, visto che arriveranno il 12 di aprile i Mazarin, sicuramente questa settimana una buona scusa per ritrasmetterli. Arriveranno per un concerto gratuito all'Idroscalo, al Circolo Magnolia. Visto che non potevo mettervi in palio i biglietti, ho a disposizione dei dischi. Per riceverli basta che mi facciate sapere, e siate veloci nel farlo, il vostro indirizzo, e questi dischi vi verranno ovviamente spediti. She loves bed, she turned all her love inside her, hoping to feel better. There are those who love themselves more than anyone else. Well, they should know that sad affliction can be dangerous for their health. Molto contento quando capisco che il legame si crea fra me e voi, legame singolo che viene mantenuto singolo comunque dallo scambio via mail, poi possa dare risultati di cui beneficiano tutti. Dico questo perché quando trasmisi la prima volta, denunciando la mia assoluta ignoranza, questo brano da parte di Helen, This Is All We Have To Know, lanciai anche una richiesta d'aiuto, e sono contento che sia stata raccolta da Matteo, il quale, usando meglio di me Google, è riuscito a recuperare informazioni di Helen, scoprire che è inglese, che inizialmente era solo il suo nome come artista ed ora viene usato a tutto tondo anche per la band. Comunque tutti voi potete andare a recuperare le informazioni grazie a Matteo sul sito helen.org.uk. Leggo anche alcune delle parole di Matteo. La settimana scorsa sono stato rapito dalla voce e dalla musica della misteriosa Helen. Spero di farti un piacevole regalo segnalandoti il suo sito web. Magari lo hai già trovato per conto tuo o forse no. Un piccolo pensiero per tutta la musica che ci hai donato in tutti questi anni. Giulio@radiorockfm.com. Tutto passa da lì, quello che poi diventa Eclettica, diventa trasmissione, quindi molto anche grazie al vostro contributo. Visto che stiamo parlando di internet, chiudiamo questa prima parte di Eclettica con Back to the Web, un disco in uscita per la Ryko Disc da parte degli Elfbauer, Athens, Georgia, e quella è la loro città di provenienza, e noi ci ascoltiamo da questo Advance CD che grazie alla Ryko Disc ho fra le mie mani, proprio la traccia che lo apre e che chiude questa prima parte di Eclettica. Si tratta di Come Lie Down With Me and Sing My Song. Questi sono gli Elfbauer. dialettica. Fine della prima parte.